In questo momento Obama ha il vantaggio elettorale, cioè ha una maggioranza di 700.000 votanti nelle elezioni primarie fino a questo punto. La senatrice Clinton dovrebbe vincere con un numero di voti abbastanza grande per suggerire che infatti in queste ultime elezioni, negli ultimi 6 stati, potrebbe chiudere questo vantaggio di Obama. Dunque, per fare questo, si pensa che dovrebbe vincere per una maggioranza forse di 10 punti percentuali per una vittoria decisiva, soltanto per rimanere nella concorrenza. Laurenti, ma c'è l'impressione, lo riporta molto la stampa, che questa campagna elettorale in campo democratico sia un po' uscita dai binari. L'ultimo dibattito Clinton-Obama non è piaciuto a molti, sono apparsi tutti e due stanchi, polemici, poco brillanti. Non è che questa disfida interminabile sta danneggiando il vostro partito? Beh, questa è la paura fra i democratici, che questa contestazione perpetua, sempre vicini, ma un po' più per Obama, ma non per una margine decisiva, che questo fa un gran danno alle prospettive democratiche a novembre, perché in questo stesso periodo c'è McCain che si rafforza senza nessun attacco fra i repubblicani. Lui sta consolidando la base repubblicana, mentre i democratici continuano a dover criticarsi l'uno all'altro, e per questo c'è la paura che crei un fracasso elettorale per il partito nell'autunno.